attenzione, sono atteso adesso. Anch'io ho acceso adesso. Ma faceva un paio di cosette. Marco non si è sentito, lascia ancora dormito. Evidentemente. E cosa ci vuoi fare? Lui dorme, dorme. Chi dorme non piglia pesci. E infatti lui pesce non ne prende. Prende cosette. E allora, io sto fra un po' me ne vado a pescare. Questo vestito. Oh, bene, bene. Ma e Gianni che fine ha fatto? Boh, non si è più sentito. Infatti, neanche l'ho più sentito. Boh, si è impegnato. E che vuol dire che ti dica? Aspetta un attimo, che sto controllando roba qua. Fai, fai, già sono qua io. Oh, Finocchi, parla bene. Finocchio sarai tu, hai capito bello bene? E beh, ho sentito una vocina, ho sentito due parole al baracchino. Peccato per voi che stia uscendo. Dai, devo fare una spesuccia così, dai, en passant da Lidl. Ok? Buona serata, già entro più tardi, ciao. Io devo andare a pescare. A che ora? Ehi, verso le 7 vado. Eia, cioè andate presto anche per piazzare la roba, tutto quanto, no? Perché piazzare al buio è un casino, mi. Ehi, già sappiamo le pile, quelle che si mettono in testa. Eia, ma chi c'era? Anche Claudio? Eia, è entrato anche Claudio, c'è Claudio. Eia, ciao Claudio, stai all'ascolto, dai. Io vado a fare queste commissioni, ma la sbrigo prima per poi starmene tranquillo a casa, ok? Ciao, ciao. Ciao, tu è... Ciatto e Longo. Era in chiesa. Ciao Marco, ci sentiamo dopo. Ho capito dove sta andando. Alto centro. Da Lidl a comprare delle cosette. Ah, a comprare delle cosette sta andando. Ho capito adesso. Fatto qua. Mi era caduto l'antivirus. L'hai aggiornato? Ehi, ehi, io sto controllando un baracchino che devo, mi ha mandato un video Gigi. Tutto così come? No, non lo tocco, no, quell'altra cosa non faccio altro. Da quasi 10 watt va bene così. Benissimo, benissimo, benissimo. Ascolta, io invece sto usando l'MB+5 su quella radio che tu sai, com'è? Va bene, no, va bene anche col microfono suo va bene quella radio, no, va benissimo, più che bene va. Perché tu mi avevi detto che non andava bene, ma già lo sai, la mia voce è quella, capito? Con l'adattatore mi hai fatto tu, lo sto usando su quella radio che abbiamo detto, capito? È positivo, i conti così sono giusti, e vabbè, e poi te lo... Ma, ecco, quella 6 punte, sì, ce l'ho fatto giusto, neanche provatolo io, No, l'MB+5 con Cobra. Ah, ma perché quello che attacchi c'ha, il contrario ce l'ha, giusto? Esatto, esatto, quello mi hai fatto tu, va bene. L'MB+5 sul Cobra e sul DAC, capito? Adesso sto usando il Cobra. Ah, io avevo capito il +4 sul... che stavo usando il +4 sul Cobra. No, sto usando quello che mi hai dato tu, l'MB+5, ma anche il +4 posso usare, ma questo spinge di più. È positivo, perché lì è stata forse... lì gli ho cambiata la capsula, io là bisogna cambiargli la capsula al +4. Sì, sì, l'ho visto, c'è il filo più grosso, la capsula diversa, l'ho visto G. Però vedi, va bene, non c'è niente da fare. A me qualsiasi microfono mi dai, io lo porto alla grande. Me ne è uscito, non era attaccato lo spinotto, intanto ho tirato e ne è uscito dal baracchino il microfono, lo spinotto. capito? Quindi quel lavoro va bene. L'altro va bene per il connettore a 6 del più 4, capito? Non è stato cambiato. Da 4 a 6, quella è un'altra cosa. Invece qua sto usando l'adattatore quello da 4 a 4 praticamente. Ma poi ad operaremi quello più 4 lì, lo puoi operare con quell'adattatore l'anni, lo puoi fare Milli, li attacchi ancora a quello lì, li attacchi tutti e due, l'ispezione funziona lo stesso, Sì, sì, l'ho già provato la grande, funziona, ma come se funziona, va bene. È positivo, io questo adesso l'ho fatto già quello là, l'ho già fatto quello spezzamato tutto ieri, l'ho già fatto, me l'ho già preparato, già fatto e l'ho messo da parte. Perfetto, perfetto. Va benissimo, alla grande, ok. Aspetta che guarda, mi è arrivato un messaggio. KK Gigi, va bene, sì, no, la 48 è a posto. Girato quella faina che mi hai detto tu. A posto. Adesso nulla. Niente da fare, siamo qua. C'era Natalino, ma forse ci stava preparando per andare a pescare. Marco è uscito. È positivo, se fai, però non conviene farlo, conviene lasciarlo così. Se fai quel lavoro, ti ho fatto vedere nel video, quell'altro, quello diretto che ti ho detto diretto, fa ancora un po' di più. Però ci sono altre due cosine da toccare, però devi fare toccando uno e toccando l'altro, sempre controllando lo strumento, e quello ti porta ancora, però meglio lasciarlo così, dai, così almeno non è esagerato e va bene, capito? Quelli per fare quel lavoro lì, sui continenti in autogrì e cosa li facevano, tutti per darti questi fatti in più, 8 fatti in più, come cosa sono 8 fatti, e li pigliavano 25 euro, capito? I camionisti passavano lì, si fermavano un attimino, gli facevano il lavoretto e pigliava 25 euro, te immaginaci? Fatto stare a Pagerani o a una cazzata. Ma l'ho visto io nel video che mi hai mandato, è facilissimo. Cosa? È facilissimo. Sì, 8, quasi 9 watt di portante bianca, 12 modulati. È più che sufficiente quella da 48 watt. È perfettissimo adesso. Va più che bene. Vabbè, ma chi sa una bestia. Questo. C'ho 50 watt importante, modulati sono intorno ai 80-90. Faulaggio. Faulaggio, sì. Bene, video strumento, vedete. Ti faccio la foto. Buonasera, sono ritornato. Con la spesuccia ho trovato anche posto, dai, cosa volete di più? Chi c'è, chi non c'è? Gigi Vulcano c'è, stavamo vedendo una cosetta con una LAN 48 e basta. E boh, poi non ho sentito altro nessuno. Natalino ci deve andare a pescare. Eia, ciao Luigi, dai. Ciao Natalino, se sei ancora all'ascolto. Eia, tanto adesso. Guarda, se tu sei alle 5 di casa, noi torni verso le 6, 6 e mezzo. Ho notato che qua la gente esce verso le 6, non prima. Adesso si liberano vari parcheggi. Sono tornato, ce n'era uno, sono tornato alle 6:30, ero già al limite, e c'era un posto, me lo sono preso. Qua il parcheggio costa caro, capito? Devo riconquistare. Vai Luigi, avete fatto le prove con microfoni e apparati, sì? No, ancora non abbiamo fatto nulla, anzi ho ascoltato questo di adesso. Però ti dico una cosa, tu fa una prova su quell'apparato, metti 4 watt di portante bianca e poi fallo sentire a Marco. Vedere cosa, tu metti 4 watt di portante bianca con quell'apparato lì e poi modula. Ma con quale Gigi? Con questo o con Cobra? Positivo, tu metti la 4 watt, che si spaventa anche Marco si spaventa, provalo. Aspetta, ma gli vuoi gli occhiali però. Casomai lo attenuo per vedere meglio i picchi. Quello è più forte a 4 watt che a 50 watt di portante bianca, mi vedrai. Allora, presciuga. Ma scusa, come fa a fare una cosa del genere? Cioè, da 10-8 watt modulati quasi 100. Ma a 4-8, a 4. Prova a fare, ola, allungo. 4 watt devi mettere, non 8 watt, che 4 k. No, non le dà 4 watt, questo parte da 8 watt. La potenza minima è 8 watt, Gigi, che c'ha il tattino. Questo non è a coso come il tuo, come quello c'è. Questo è il 200 GTL DX, che la versione da 200 watt. Quindi parte 8 watt di portante bianca, alla minima potenza. Guarda. Allucinante, quasi 150 watt. Oh, allora è più forte di radio e di tutto, ma è più forte di radio e di tutto, mi chiede a Marco come ha cambiato di radio. Allora, fischiando da 9 a 9 più 15 e modulando anche lo stesso picchi 9 più 10, 9 più 15 ogni tanto, sai, con le vocali. È una bella bestiolina mia. Mi ricorda il caro vecchio, come si chiama? Quello che ho dato io, l'Omega Force. E quello è un, non mi ricordo, il 48 è, o il DAX. No, oh, questo è il Cobra, il 200 GTL DX, la versione da 200 watt. Eia, eia. Sì, sì, ho visto i picchi. Ma non lo sapevi prima che faceva quel lavoro lì, no? Ma se non l'ho mai adoperato, cosa facevo, cosa... Lo che sai, qua c'è anche, cos'è questo? RBIP, cos'è questo? Roger Bip, cosa vuoi che sia? Aspetta, feo. Ma è così, è questo Bip. Eia, passo. Tu. Tu. Ok, ma tu lo sai il cambiamento del radio che c'è, come ha passato i passi? Ma è una cosa allucinante. Meglio o peggio, Gigi? Meglio? Molto più forte del radio. Guarda, il segnale è sempre quello da me, non ha cambiato nulla. I picchi che cambiano, che prima, adesso c'ha dei picchi allucinanti, si vede qua, è la radio che è molto più, ti dà molto più radio quando abbassi, capito? Infatti, ti aumenta un bel di radio. Non lo sapevo, vabbè, comunque lo lasciamo così, allora a minima potenza, dai. Tanto vedo lo strumento che in pratica, allora, scala 200 e scala a 20 e la manda a fondo scala, perché va da, ecco, da 5 watt, da 5 watt va... Lo inchioda Gigi, lo manda a fondo scala e scala a 20. Ma già lo so io che funziona così, lo so benissimo che funziona così, oggi ho il coso qua. Se lo metto a 50 watt portante bianca non cambia niente. Lo metto a 4 watt e lo chiudo tutti quanti a 4 e a 0 a 4 watt e lui spinge. Cavolo se spinge. Niente, metto a 50 watt, lascia stare così. Potenza minima. Già va bene. La radio è bella, Marco, anche da te. Eia, questo riceve acuto, però è buona. Allora, cosa ti volevo dire? Guarda che l'Omega Force funzionava con lo stesso principio. Tu di quei 40 watt in AM o quanti sono, gliene potevi dare anche 40. Però la modulazione era relativamente forte, ma quando tu gli metti 1-2 watt di portante fissa, tutti gli altri 40 te li ha modulati, era molto più forte in quel modo, capito? Cioè mettere bassa potenza di portante fissa e tutto in modulazione, capito? L'ho visto. Vabbè, questo, la minima potenza è quella. Mentre invece l'alta potenza è molto più esciuga. Ma va bene. È un bel baracchino, una bella bestia questa. Veramente una bella bestiolina. Questa è la versione, quella col lineare sotto la pancia, no Gigi? Sì, quel lineare sotto la pancia, quello lì. E poi avevamo fatto diversi modelli, c'era anche un altro coso, c'era Giovanni l'originale, ce l'ha stesso, però è della... Galas, un Galas c'ha lui, è preciso, cioè me lo dico solo che è Galas, invece se ne copre con la cosa sotto la pancia, dai. È uguale, sempre intorno a 200 watt, una cosa del genere, dai. Guarda, in banda laterale sul parlato siamo intorno ai 170-180 watt, sul parlato, in banda laterale. In AM a potenza alta siamo intorno ai quindi 80 di portante con la potenza alta, 80 di portante muta, intorno ai 125-130 parlati. Lo so che è così. Lo so, già l'ho provato quell'apparato, l'ho provato qui. Infatti l'aveva visto Massimiliano, quell'apparato qua, l'ho fatto vedere a lui e infatti se ne è innamorato, però era di una pista della zona di Oristano, che l'avevo fatta arrivare io, te l'avevo detto, l'ho fatta arrivare io questo Cobra, arrivare, me l'aveva mandato lui come campione per vederlo, per provarlo, però costava 480 euro all'epoca e avevo preso il magno io, che l'avevo pagato, se no che l'avevo pagato di meno, 440 mi pare, me l'aveva preso, uno me l'aveva lasciato mi sembra 420, quel magno famoso che poi l'avevo dato a te, tu l'avevo dato, è stato gira, poi ha fatto tanti giri quelle, che non so neanche dove sia finito adesso. Sì, questo è costato pochi spiccioli di 500 euro, nuovo, entro la scatola. No, 480 costa all'epoca, io sto parlando del 2004-2005, questo mi ricordo bene, quel periodo lì, e costava 480 già, quello lì, era arrivato, fatto arrivare, me l'aveva scritto quello delle 6.000, insieme al magno, all'S9, l'antenna che c'avevo sempre in camion io, e qualche altra cosa aveva mandato, tutte quelle antenne famose, ti ricordi, tra che quelle grosse, quelle sembravano una bottiglia, ti ricordi? Sempre quella stessa ditta di Reggio Emilia aveva mandate tramite quello di Oristano, quell'amico di Oristano, che perché io direttamente non potevo ordinare, capito? E allora me lo ordinava questo di Oristano. Ah, ho capito. Vai Marco, ripeti. Ehi. Vabbè dai, io purtroppo resto all'ascolto e sono qua, però devo, ci abbiamo le lasagne, le devo scaldare, sono già cotte ma vanno scaldate, insomma devo mangiare, in poche parole, dai, rimango all'ascolto, o meglio prima le scaldo, poi quando sarà il momento di mangiare già vi avverto, ok? Va bene Marco, no Gigi, adesso aggiungi minimo altri 150 euro per comprarlo, adesso nel 2017, questa è la versione, il GTL Nixi da 200 watt, la versione da 200 watt, è una bestia Gigi, ma tanto bestia, grande, enorme. KK, va bene che va bene, comunque dopo, adesso che adesso, intanto adesso fra un po' devo portare Filippo, dopo collego il 48 così te lo faccio sentire. Va bene, andare, io devo lavorare, stavo facendo giù cosa, sistemando giù e sono salito acceso, ho sentito a te che stavi chiamando, penso appena salito mi devo ancora lavare, sono tutto piccica piccica che ero giù facendo cosa, fare la doccia ancora. KK, va bene G, grazie dell'info comunque per quel lavoretto e niente, come ti stavo dicendo, vabbè dopo te lo faccio sentire, dai sì, ok, me lo metto qua vicino a fianco a questo, tanto in questi giorni sto usando i baracchini che ho a casa, quindi non c'è problema, la radio quindi mi ha confermato che va bene, la lascio stare così. Cambiato dal giorno alla notte, così è molto più forte, più penetrante, capito? Molto più penetrante. Questo per esempio è adesso, io ce l'ho con i vatti chiusi a 4 vatti, questo è il Saturneco, però guarda, te li giro, cosa cambia? Te li apro tutti quanti, non ha cambiato niente, non penso che abbia cambiato qualcosa, da così a chiudendoli a 4 vatti, cosa cambia? Cosa cambia Gigi? Dici di me cambia, se non è nulla. Addirittura, ma la radio cambia. Allora, 10 dB ha cambiato. Adesso sono 4 watt, così sto andando aumentando e così sono al massimo dei watt. 10 dB cambia, 10 dB. 10, però ma cambia la radio o è sempre uguale la radio? No, la radio è leggermente più forte quando abbassi. Ecco, perché più abbassi è più forte, lo so, quello lo so. Adesso ce l'ho a 4 watt. Più abbassi basse più forte e più scaldano e meno scaldano il finale. E si conferma, e allora che butta così? Sì, infatti c'è bisogno di metterlo al mare, infatti lo tengo a 4 watt, c'ho il segnettino, so che lì sono 4 watt e me lo lascio lì a 4 watt. Poi va contro il suo, perché questi 4 watt e questa da picchi di 30 watt, così mi ha 4 watt, attenzione, non è che scherza questa, se tu attacchi l'automento te la picchi di 30 a 4 watt. Sì, già va bene, già va bene. KK, ok. Dai, che mi allontano 10 minuti e poi ne torno, ok? Io mi faccio la doccia là, frattempo. E io sono qua sul 10, Gigi. Va bene, cari. Buona doccia, buon tutto. Sono qua, Marco, un attimino, già rientro subito. Da cena fai tutto assieme, giusto? E poi se ne parla domani sera. Beh, no, vabbè, oggi ho fatto più tardi anche perché sono uscito a fare la spesa a quell'ora, no, che è la migliore per trovare posto sotto casa, nella via, insomma, dai. E quindi noi pranziamo alle 6:30, certe volte anche alle 6, e poi a cenare alle 11:30 a mezzanotte. Abbiamo il fuso orario di New York. Ah, ho capito, no, io... se va bene mangio a luna, pranzo a luna, luna, luna e mezza, ma in quell'ora lì, prima non avevo orario quando lavoravo, ma adesso che sono a casa io a luna sono sempre seduto a tavola, no, ormai ce lo sono fisso perché non sto lavorando e c'ho quell'orario a luna, lo so già a luna, io lo sto pranzando. Io dicevo che a me non piacevano le abitudini, per me, no, personale. Io infatti non mi sei mai sentito di mamma mia, io non capisco come fanno certi uomini che tutti i giorni a luna devono mangiare, devono, se no cade il mondo. Di solito io mangio quando ho fame, cioè se ho fame presto, mangio presto, se ho fame più tardi, mangio più tardi, capito? Non mi faccio, non ho ore fisse, capito? Io dico che uno deve mangiare quando ha fame, se non ha fame non mangia, mangia più tardi, che problema c'è? sì, ma io sai cosa faccio la mattina? Io alle 7:30 mi sto alzando, 7, stamattina forse erano le 7, esco a piedi, faccio a piedi, vado al bar più lontano che c'è lì a Ottava, no, al primo che ce l'ho vicino a casa, se no cammino poco, vado sino al più lontano, mi prendo un caffè, mi faccio una chiacchierata e faccio tutto il giro largo largo e torno a casa, capite? Faccio quel chilometro, un chilometro e mezzo al giorno a piedi la mattina e poi giù in campagna, cioè, sono salito, mi sono detto sto facendo cose in campagna, dopo pranzo mi sono posto nel divano, ho guardato poi appena appena la televisione, poi verso le 3 sono sceso giù e ho iniziato a fare qualcosa senza faticarmi molto, però mi sono messo in movimento e ho fatto qualcosa in campagna giù da me, dai. Eia, qua sta scaldando la roba già pronta e niente di... che mamma non è di quelle che sta a fare le lasagne in casa, oh. Sono passati quei tempi, forse nonna lo faceva, noi le pigliamo pronte e ce le mangiamo. E le stiamo scaldando col microonde, dai. Tanto grosso modo sono precotte. Ok, dai Luis, fatti questa doccia, io sono qua, poi rientrerà Claudio se ne ha voglia. E se no, vabbè, dai, pazienza, dai. Comunque ritieniti salutato, ok? Va bene, dai. Ciao Marco, io vado a farmi la doccia allora. Ciao, ciao. Ehi, ci sentiamo dopo, già sono qua io. Eccomi qua. Gigi Burca. Attento Gigi. Appoggiami. Senti la voce come chiara. Io anche io sono paparacchini. Ok, ciao. Bella, la voce anche del telefono, sempre amplificata la mia voce. Sembra che c'hai il Kenwood anche in WhatsApp. Sì, te l'ho detto, su WhatsApp te lo dico qua. Intanto siamo tutti col baracchino. Almeno questi HF riposano, il 27, e va bene così. Questa è una bella radio, posso usare anche l'altra, 7000 DX, e ce ne ho baracchini belli, dai, bisogna usarli, KK, dai. Buon pranzo Marco, ci sentiamo dopo. Comunque mi sono ascoltato con la potenza più ridotta e effettivamente ha ragione Gigi, la modulazione è molto più corposa. Eia. Ok, dai, sto impiattando. Ciao Claudio. Ciao, buon impiattamento.